Atto, mi ascolta. Se no mi intendi, Tony? Sì. Schiaccia, dopo un secondo, lascia un secondo, se no non si capisce. Ok, cosa hai detto? Ho detto, come mi ascolti qua? Ottimo, Santiago 9, la radio 5. Senti, sei a fondo scala qua, dai, fondo scala. K. Vabbè, qui io c'ho basso l'antenino qua, Io già ti sento, non ne ho problemi. Sono 4 metri di palo, là, voglio sollevarla ancora di più. K, ma da San Camillo qua c'è una gannonata, me. Sono San Camillo sì. K. Cavolo, pompa questa cosa. Ma io non c'ho il Baofeng però, Vabbè. Però io c'ho il Baofeng che fa bene. Caspita. Io il mio è stazione piccolina da base, capito? No, già fa bene, cavolo. E con poca roba, cazzo, una cannonata questa roba. K. Sì, in effetti. E quell'altro tanto già c'è, sì. Romboli. Sì, prova questo a vedere, mi senti con questa? Certo che ti sento. Questo è quello che mi hanno fatto da poco, mi hanno fatto, capito? E quello da Vero Italia c'è qua? Non lo so, devo chiederlo a Antonio. Antonio Vero Italia, ci sei? Attento Gianni, mi senti? Gianni, mi senti? Guarda, ci deve essere anche Gianni, mi. Già, mi senti adesso? Vaffanculo. Non mi arrivi. Antonio, mi ascolti? Ora ti sto chiamando. Prova, 1, 2, 3, mi ascolti, Antonio? Attento, Gianni, mi senti? Attento, Gianni, mi senti?